per quanto noi ci crediamo assolti, siamo per sempre coinvolti. E gli applausi sono quelli di Sanremo dell'anno scorso, ma quest'oggi non vi parliamo di nuovo di Sanremo, l'abbiamo fatto già nella scorsa puntata di Zibaldone con A Modo Nostro, con I Respinti dall'Ariston. Quest'oggi invece parliamo di ben altre questioni che hanno a che fare con la politica, con la società italiana e purtroppo con le carceri e con il mondo carcerario, e per questo il brano che vi ho mandato in onda in apertura, Giovanni Truppi e Vinicio Capossela, una canzone mitica di Fabrizio De André. Ma do subito il benvenuto al nostro Banzo. Banzo, bentornato a Zibaldone, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Sì, diciamo, l'apparizione di Sanremo era incidentale, perché come giustamente hai sottolineato tu, oggi parliamo di ben altri argomenti, non sempre possiamo permetterci il lusso della frivolezza come la settimana scorsa. Oggi invece parliamo di questioni di attualità stringente e drammatica, ecco, l'aggettivo non è esagerato decisamente. Nella mia ora di libertà, appunto, il brano con cui abbiamo aperto lo Zibaldone di quest'oggi, perché di libertà vorremmo parlarne, ci auguriamo che la libertà sia quello che ritrovi Ilaria Salis quanto prima, e soprattutto che lo faccia in Italia, un tema di cui si è parlato finalmente nelle ultime settimane, la detenzione in Ungheria ormai praticamente da un anno nell'Ungheria, regime illiberale governato dal 2010 da con mano di ferro da Viktor Orban. Ilaria Salis, giovane antifascista italiana, maestra 39enne di Monza, che è stata arrestata a febbraio dello scorso anno del 2023 per aver partecipato a una manifestazione antifascista da quanto pare aver picchiato insieme a degli altri antifascisti di diversi paesi dei neonazisti ungheresi. Ecco, quello è quello che arriva. Ovviamente se ne è parlato molto in queste settimane, la Repubblica ha dedicato molte pagine, molti reportage, anche diverse interviste a questo tema. Poi ovviamente il baraccone della politica italiana, Banzo, ci è tornato sopra a modo suo, soprattutto parlando della maggioranza di governo attualmente a Roma. Baraccone, Steven, è una parola molto azzeccata, soprattutto uno che si è distinto per, vabbè, il governo sa che la Meloni e Orban hanno una corrispondenza d'amorosi sensi che non parte da ieri, ecco. Però chi si è espresso più direttamente sul caso è l'ineffabile Salvini, che ovviamente parla sempre di difendere il nome dell'Italia, poi quando c'è un italiano in una situazione di questo tipo, che cioè, insomma è una situazione di diritti umani negati, si fa sempre notare, ovviamente dicendo che beh, certo, è giusto che sia in prigione, aveva fatto questo e quello, non può fare la maestra perché è in prigione per questa cosa qui. E lui, lo ricordiamo, è sotto processo per la nave di Ciotti, invece, e fa il ministro, ecco. Sì, questa è una cosa che non faccio notare io per primo, ma vale la pena ricordarlo, perché purtroppo al netto delle simpatie ideologiche di questo governo, che sono note, credo che insomma, quando c'è di mezzo la salute di un cittadino italiano, come in questo caso, perché si dovrebbe assumere un atteggiamento più neutro da parte delle istituzioni, cosa che insomma è mancata, ma le istituzioni in questo momento sono questi personaggi, ecco. Assolutamente, ne parleremo quest'oggi con Francesca De Benedetti, giornalista di Il Domani, che segue la politica italiana, la politica internazionale, segue molte delle vicende che hanno a che fare anche soprattutto con la destra e l'estrema destra, tanto in Italia come nel resto d'Europa, e parleremo del caso di Ilaria Salis e ovviamente anche delle ripercussioni che hanno sulla politica nazionale ed europea. Andiamo però con un brano e andiamo in Ungheria a sentirci questo brano, che in realtà poi ha una connessione con l'Italia, ve lo spiegheremo tra poco. Föld úrnő, imádunk téged, víz úr. az Isten áldjon, Isten áldjon. Föld és tenger lopja álmunk, együtt ébredünk a nappal, munkában lel már a hajnal, és a naptól ég a hátunk, ég a hátunk. Föld és tenger és ebédre van kenyér, de csontra szárad, víz se jut, hogy abba áztasd, s vízbe fúl a róna széle, róna széle. Föld és tenger, s jő az este, otthon várnak éhes szájak, neki látsz a puszta tálnak, s vár az asszony, vízna teste, vízna teste. Föld és tenger, cső az éjjel, rabként hálsz a gödrös ágyon, az is kín, ha jő az álom, azt is földvíz tépi széjjel, tépi széjjel. Mindig föld és víz, hogy fájjon, föld és tenger, rongyos élet, Föld úrnő, szolgálunk téged, s megklepálunk. Hát Isten áldjon, Isten áldjon. Questa canzone del 1976, Föld és Víz, in ungherese ovviamente terra e acqua, tradotto letteralmente, di Orfeo Zenes Coporte. Spero di pronunciarlo anche bene, Banzo, però l'abbiamo mandato in onda perché ha un legame con l'Italia in realtà, no, questa canzone? Sì, guarda, per quanto riguarda la pronuncia, siccome l'ungherese è veramente una lingua bellissima ma temibile, ho provato a chiedere a Google Translate, mi dice Zenes Coporte. Non sono in grado di garantire sull'esattezza di questa affermazione, ma ci perdonerete. La canzone è anche per indicare un po' com'era internazionale il concetto di canzone d'autore negli anni 70, nonostante le barriere linguistiche potessero essere molto alte. Si tratta di una cover del brano del cantacronache Polesine, cantato in dialetto veneto da Margot. Quindi passiamo dal dialetto veneto all'ungherese, in salto impensabile. E l'Orfeo Zenes Coporte è un gruppo che criticava il governo da sinistra negli anni 70 ed è stato a lungo sorvegliato per questo dalla polizia politica ungherese, insomma, benché si dicesse ai tempi che l'Ungheria era il più liberale dei paesi oltre Cortina, esisteva comunque una forma di controllo politico abbastanza serrato. E sì, è un gruppo che nel nome di questo internazionalismo, diciamo che poteva avere come riferimento i nomi della nuova canzone cilena, però comunque guardava all'orizzonte più vasto della musica d'autore che si produceva in quel momento, o in quel periodo, meglio detto, nel mondo, adattando canzoni in ungherese e anche facendo composizioni proprie. Eh sì, e prima di parlare con Francesca De Benedetti, che già ci sta aspettando in collegamento qui a Zibaldone per parlare del caso di Ilaria Salis e di tante altre cose collegate tra Italia, Ungheria ed Europa, andiamo con un altro brano invece più recente che ci arriva dall'Ungheria, da da un attivista e rapper ungherese che è Aaron Molnar, che nel 2019 fondò un collettivo artistico ed intervento politico chiamato Noar. Ne parlammo un paio d'anni fa qui a Zibaldone, perché Noar fu premiato con il premio Yoruma dal Club Tenco nell'ottobre del 2021, proprio per il loro attivismo politico e la loro lotta in difesa della libertà di espressione e dei diritti umani nell'Ungheria di Orban, che, lo ricordiamo, non è più una vera e propria democrazia, ma è, come è stato anche definito dal Parlamento europeo in più occasioni, un regime ibrido di autocrazia elettorale. Ecco, vi facciamo sentire questo brano intitolato Mili and Aaron, A quale prezzo, il titolo letterario di questa canzone, uscito nel 2022, in cui Aaron Molnar riflette sulle difficoltà affrontate tutti i giorni da lui e dal suo movimento per il cambiamento, appunto, nell'Ungheria di Viktor Orban. Sentiamoci questo brano e poi rientriamo con Francesca De Benedetti. Mi and Aaron. Mi and Aaron, olcsó, akciós Aaron. Na vicc, patron, eldurant, ha valami kimaradt, várom. Aaron, figyelek, bekértél eddig számon, de most forduljon a kocka, szóval mi and Aaron? Milyen áron hagytad ott annó a színházat? Tudod, milyen érzés az, komám, amikor a szív fellázad? Mikor kinövik a közügyek a színháznak a falait? Blabla, minek veszed nyakadba az ország szarait? Szarait? Ha nem venném, pont akkor szarnék az országra. Parancsra szavalnék, hallgathatnék Orbánra. Hol a színészünk elment? Jelentem, itt vagyok. Nem számít, ki itt gagyog. Bakon hűszerem, itt ragyog. Na nem, ez nem én vagyok, nekem nem spanom a némaság. Engem hazavág, mikor a csodálatos szakmánkat rohasztják. Milyen áron elkussolsz, hanem mindig popázol. Inkább Demeternek kellene vágnom egy cuki popát jól. Remélve, hogy az ébresztőt a Petőfi lejátszák. Kussolnom kéne, vagy pózolnom, mint a piti pojátszák. Itt pökhendi politikusok mellett remélnek lovettát. Koma, te nem látod a fától azt a bitang nagy gerendát. Jaj, megint hangos vagy, az indulatomat ne vedd át. Csak igazságot szeretnék, és nem kulturális rendetet. Ugye addig, és az igazság az, hogy még élek, el nem felejtem, hogy kik miatt lett szétcseszve a Színház és Filmművészeti Egyetem. Milyen áron szólsz be azoknak, kik csesztetnek? Na figyelj, dilettáns nerverzek, hány tagja van a szextetnek? Hát nem, a szextet nem az, amikor sokan szexelnek. Hat hangszeres együttes vágod, és ezek itt flexelnek. A szofisztikált szó most túl misztifikált. A helyre akarok tenni egy ilyen szilárd misztifikát. Milyen áron? Tessék hozzám egy kis adalék. Túl nagy árat fizetnék, hogyha csendben maradnék. Túl nagy árat fizetnék, hogyha csendben maradnék. Túl nagy árat fizetnék, hogyha csendben maradnék. Túl nagy árat fizetnék, hogyha csendben maradnék. Túl nagy árat fizetnék, hogyha csendben maradnék. Milyen áron teszel fel mindent egyetlen lapra? Gondoltál arra, mi van, ha nem lesz kenyeret holnapra? Ettem eleget, de vannak, kik meleget nem ehetnek. És van, ki nem megy suliba, mert nincs cipője a gyereknek. De minek állsz ki azokért, kik csórók és szegények? Mert szarnak rájuk a kamu keresztény szerények. Senki ne lopja el az igaz hívőktől a hitet, főleg az neki adóforintból úr és abból fizet. Ki tiszta vízről papol, de közben szennyezi a vizet. Jöjjön el az idő, mikor a hívő egy Istenbe hihet, és nem egy párt mondja meg, hogy mégis kiszámít embernek. Jobb baloldal, engem középen találtok, ha kerestek. Áron, milyen áron menjünk el tavasszal szavazni? Ha 500 ezer új szavazó nem fog otthon maradni, ha több mint 20 ezeren megyünk el szavazatot számlálni, akkor végre nem jobb, vagy baloldalra kell beállni. Mi? A nép vagyunk, ki megakad a pártok torkán, és hiszem, hogy el fog jönni a szakértői kormány. Ez az ország a terepem, ezért én kimondom kereken, nekem pont 4 éve lett ebből a rendszerből elegem. Változás csak akkor lesz, hogyha szavazunk elegen. Jössz szavazatot számlálni, koma, a kalapom emelem. De ha kussolni láttátok, én világgá szaladnék. Túl nagy árat fizetnék, hogyha csendben maradnék. Túl nagy árat fizetnék, hogyha csendben maradnék. Túl nagy árat fizetnék, hogyha csendben maradnék. Túl nagy árat fizetnék, hogyha csendben maradnék. Túl nagy árat fizetnék, hogyha csendben maradnék. E abbiamo in collegamento telefonico con noi Francesca De Benedetti, caposervizio Europa di Domani, del quotidiano Domani. Francesca, innanzitutto benvenuta a Zibaldone, un piacere averti con noi. Grazie a te per l'invito. Stiamo dedicando questa puntata appunto al caso di Ilaria Salis, praticamente un anno nelle carceri di Budapest, in condizioni tra l'altro che definire insalubri è un eufemismo, incomunicata per mesi con la famiglia. Il padre Roberto Salis finalmente ha trovato una certa almeno visibilità per cercare di parlare del caso di sua figlia, portata al guinzaglio, ammanettata, polsi e caviglie in tribunale, insomma con delle accuse tra l'altro che definire surreali è poco, no? Gli si chiedono 24 anni per ferite lievi senza tra l'altro denuncia da parte di neonazisti che un anno fa, il 9 e il 10 di febbraio del 2023 erano radunati, come ormai ogni anno, a Budapest per celebrare il giorno dell'onore, no? Ricordare nel febbraio del 45 il battaglione nazista, formato sia da tedeschi che da ungheresi, che cercò durante varie settimane di impedire l'assedio dell'armata russa alla capitale ungherese. Insomma, un commento innanzitutto da parte tua sulla storia che si è conosciuta recentemente di Ilaria Salis, dopo vari mesi in cui questa donna italiana, la 39enne maestra delle elementari di Monza, insomma, sta vivendo rinchiusa in condizioni quasi subumane in un carcere di un paese dell'Unione Europea. La cosa che a me ha colpito di più è stata la durezza con la quale all'inizio di questa settimana il padre di Salis ha rivolto un j'accuse al governo italiano. Io penso che in questi giorni la famiglia di Ilaria Salis abbia innanzitutto l'urgenza di trovare una mediazione, di aiutare la figlia, e nonostante ciò il padre di Salis ha ritenuto di non avere alternative se non dichiarare pubblicamente che il governo italiano non sta in alcun modo tutelando sua figlia. Questo mi colpisce, appunto, perché si potrebbe immaginare che si tentino tutte le carte, che quindi fino all'ultimo sia nell'interesse della famiglia collaborare col governo. Invece il padre Ilaria Salis all'inizio di questa settimana è uscito da un incontro con i due ministri Tajani e Nordio alzando le braccia e dichiarando: mia figlia resterà in carcere ancora a lungo, il governo non ci aiuta. Questo è grave dal mio punto di vista, e oltre al governo italiano in questa storia c'entra anche il governo ungherese. Qui veniamo al secondo punto, che è molto interessante. Bisogna un po' allargare lo sguardo per capire le dimensioni e la portata di questa storia. Quando ho parlato con i miei contatti ungheresi per capire come fosse vissuta nell'opinione pubblica ungherese questa storia, ho capito due cose: che se è vero che la storia specifica di Ilaria è arrivata agli ungheresi soltanto tramite giornali italiani, cioè all'inizio non era un caso in Ungheria, non se ne parlava, non se ne scriveva, allo stesso tempo però soprattutto i contatti, diciamo, autorevoli e attendibili della sinistra ungherese mi riportano che ci sono degli atteggiamenti, dei comportamenti del governo estremamente squilibrati. Che cosa si intende? Che, come tu raccontavi, Steven, ogni febbraio, sotto il pretesto, il cappello di una passeggiata storica, in realtà a Budapest si danno appuntamento una serie di mondi, di realtà, marmaglie neofasciste, neonaziste, lo fanno con il beneplacito del governo Orban, lo fanno anche col finanziamento pubblico ungherese, cioè ci sono dei soldi pubblici ungheresi che vengono dedicati a questi appuntamenti, mentre quindi questo mondo di estrema destra è estremamente tutelato, si creano le condizioni perché si dia appuntamento proprio lì, e addirittura capita che ci siano aggressioni neonaziste contro militanti di sinistra che passano impunite, invece viceversa nei confronti del mondo della galassia antifascista e di sinistra ci sono atteggiamenti pregiudiziali. Allora qui entro in un fatto concreto per dare un esempio e per, come dire, circostanziare questa affermazione. Io ho parlato in particolare con András Jambor, trovate l'intervista su Domani se volete cercarla e leggerla più approfonditamente. Lui è il leader di SICRA, la sinistra ungherese, la sinistra vera e propria, quella più, diciamo, radicale, ed è riuscito a essere eletto in Parlamento, quindi è nelle istituzioni, una persona assolutamente pacifica che ha sempre sottolineato che il suo movimento e che la sinistra ungherese non avrebbe preso parte a eventi violenti. Eppure Fidesz ha creato una campagna contro un membro del suo movimento, una donna, l'ha tenuta in carcere per 2 settimane sulla base di accuse che poi non è potuto non emergere che fossero palesemente infondate, ed è stata fatta una campagna di diffamazione. Quindi abbiamo un altro punto di vista esterno alla storia: c'è un attivista della sinistra ungherese innocente i giudici alla fine della storia lo riconoscono, ma all'inizio questa attivista viene trattenuta in carcere 2 settimane e viene lanciata una campagna di diffamazione della sinistra ungherese. Questo dà l'idea, come dire, del carattere anche politico, purtroppo, di questa storia. Non è semplicemente una cronaca giudiziaria, ci sono elementi politici e lo si vede ancora meglio nei negoziati tra Meloni e Orban su questo caso. E infatti questo io credo che sia anche l'altra vertente, no, di questa questione, che è interessante anche perché ultimamente ci sono state molte novità, no, dal punto di vista più politico: il futuro ingresso di Fidesz, il partito di Orban, nel gruppo presieduto attualmente da Giorgia Meloni, i conservatori e riformisti europei, ma dall'altra anche ampliando un po' lo sguardo, tutto quello che sta succedendo a livello europeo sugli aiuti all'Ucraina, sui fondi all'Ungheria bloccati, eccetera, eccetera. Sì, diciamo che Giorgia Meloni ha una strategia bifronte, come è spesso accaduto in Europa con Fratelli d'Italia. Da una parte vuole porsi nei confronti del PPE, dei popolari europei, con i quali è di fatto tatticamente alleata, e nei confronti di altri interlocutori, come la mediatrice, il pontiere che riesce a normalizzare, a contenere le mine impazzite come Orban. Questa strategia è molto debole e lo abbiamo visto anche questo lunedì. Perché cosa è successo? Che il premier ungherese aveva garantito che non avrebbe osteggiato alla fine l'ingresso della Svezia nella NATO, e invece al momento del voto nel Parlamento ungherese i parlamentari non si sono presentati, quindi di fatto Orban ancora una volta ha boicottato l'ingresso della Svezia nella NATO. Allora, se l'argomento di Meloni è: io prendo Fidesz nei conservatori europei perché così atlantizzo Orban, normalizzo Orban, allora chiaramente questo alibi viene distrutto ancora prima di essere utilizzato. Questo sarebbe l'alibi, nel senso che interlocutori di Fratelli d'Italia a livello europeo già mesi fa mi avevano detto che l'ingresso o meno di Orban sarebbe dipeso anche da questa variabile, la capacità di contenerlo. Orban sembra incontenibile. E anche sulla vicenda Salis è incredibile come il premier ungherese abbia alzato la posta, come dire, si sia accanito o abbia fatto accanire i suoi fedelissimi contro Ilaria Salis. Quindi ogni strumento di ricatto per lui, diciamo, è un'occasione ghiotta. Eh sì, e tra l'altro, tornando un attimo alle istituzioni italiane, tu prima dicevi con ragione, insomma, che il padre Roberto Salis, il padre di Ilaria, ha, insomma, alzato la voce dicendo, insomma, da parte delle istituzioni non è stato fatto nulla. Si è letto sui giornali, appunto, che l'ambasciata italiana a Budapest negli ultimi 11 mesi non ha mosso quasi praticamente un dito, e dall'altra anche il governo Meloni, al di là di aver ricevuto il padre di Ilaria, sembra che né il ministro degli esteri Tajani né tantomeno il presidente del Senato La Russa né la stessa premier Giorgia Meloni in realtà, insomma, abbiano voglia di fare granché. Questa è anche la tua impressione? Allora, secondo me ci sono diverse fasi in questo processo, diciamo, di distacco del governo dal caso Salis. C'è una prima fase nella quale il caso di Ilaria Salis passa sotto traccia anche sui media italiani, nel dibattito pubblico, però come avverte puntualmente anche il portavoce di Amnesty Riccardo Nuri dalle colonne di Domani, per esempio, lo ricostruisce data per data, in realtà l'ambasciata e il governo italiano sono informati del caso, sono informati delle condizioni abusive di detenzione, sono informati di catene e guinzaglio, ma nulla accade. L'ambasciata osserva, l'ambasciata italiana a Budapest, ma non interviene. Quindi tutto sommerso, diciamo così, una calma apparente nella quale comunque si rileva un'inazione del governo Meloni. Poi c'è una svolta, la svolta sono le immagini. È capitato spesso in Italia che di fronte a casi gravissimi fossero solo le immagini scioccanti a risvegliare le coscienze. Penso per esempio al caso ancora più eclatante di Stefano Cucchi. In questo caso il padre Ilaria Salis decide di mettere l'opinione pubblica di fronte alla realtà. In quel momento il caso diventa mediatico e quindi il governo non può fare finta di nulla, o meglio ci prova. C'è qualche ministro del governo Meloni che dichiara: non ho visto quelle immagini, non posso commentare, ma noi sappiamo che il governo sa, e a quel punto si crea un imbarazzo. Questa è la seconda fase. Nella seconda fase il governo Meloni è pressoché convinto che dopo tutto con Orban basti parlare, Meloni sa che lo vedrà il 1 febbraio al Consiglio europeo. Chigi pensa di cavarsela con un semplice accordo, dopotutto sono alleati, che problema c'è? Proveranno a chiedere i domiciliari, risolveranno in qualche modo, leveranno la premier dall'imbarazzo. E questa è la seconda fase. Poi c'è la terza fase, la fase più dura. Alla vigilia del Consiglio europeo, Meloni incontra Orban di notte in un albergo, discutono ovviamente della mediazione sul Consiglio europeo. Io non penso che sia stata una mediazione sul caso Salis, certo. È stata una mediazione su Consiglio europeo, dossier Kiev e ingresso nei conservatori europei. Quindi la mediazione verte su altri dossier. Io infatti parlo anche con giornalisti d'inchiesta e analisti ungheresi, mi confermano che il caso Salis non è assolutamente una priorità del governo Orban, la priorità è entrare nei conservatori. Eppure cosa succede? Che proprio pochi minuti prima dell'incontro Meloni-Orban, un orbaniano di ferro, Zoltan Kovac, inizia a pubblicare su Twitter una requisitoria contro Salis. Una requisitoria paradossale, perché da una parte l'orbaniano dichiara che questi sono fatti che riguardano la magistratura, dall'altra però gli orbaniani sono perfettamente coscienti di fatti privati che riguardano il caso Salis. Per esempio Kovac dichiara Salis è una bugiarda, dichiara il falso, per esempio aveva dichiarato di non avere un fidanzato e invece ce l'ha. Elementi esotici. Sì. Che vengono introdotti nel dibattito come a dire noi sappiamo, noi abbiamo tutti gli elementi. Quindi il governo Orban da una parte dice questi sono affari della magistratura, dall'altra fa capire di avere tutti gli elementi in pugno. Quando Meloni esce dal negoziato con Orban, Meloni adotta la linea di Orban, cioè dice noi dobbiamo aspettare che il processo si svolga. Fa intendere, proprio come poi pochi giorni dopo dichiarerà il padre di Ilaria, che bisogna rassegnarsi all'eventualità che le cose continuino così. Non dichiara ho ottenuto i domiciliari, non dichiara mi batterò, ma replica la linea di Orban. Quindi questo fa pensare che in effetti, anche se il caso Salis non è il dossier di negoziato, è entrato nel negoziato e Meloni a sua volta è imbarazzata perché deve prendere atto che evidentemente non riesce a sbloccare la situazione come avrebbe sperato. Assolutamente, certo, no, è chiarissimo quello che ci spieghi. Dall'altra anche insomma, le affermazioni del politico ungherese che citavi poc'anzi poi sono state rilanciate immediatamente dai giornali di destra e estrema destra come Il Giornale, Libero, La Verità e insomma tutto il mondo meloniano e soprattutto salviniano in Italia nei giorni successivi. Sì, diciamo che poi in tutto questo ci sono anche delle dinamiche interne alla destra che sono molto, diciamo, giornalisticamente divertenti. Divertenti solo dal punto di vista narrativo e giornalistico, perché per altri versi sono desolanti. C'è comunque in tutto questo anche una dinamica di competizione interna tra la Lega e Fratelli d'Italia. Quando Salvini alza la posta e fa un po' il gioco di Orban e lui e Ceccardi, un'altra leghista di ferro, iniziano a pubblicare video nei quali accusano Salis, fanno una campagna di diffamazione nei suoi riguardi, stanno anche cercando di rendere più difficile per Meloni la mediazione. Quindi questo è molto interessante. In realtà c'è una sorta di contesa. Dove andrà Fidesz nel 2024? Noi sappiamo, per esempio, dalle proiezioni di ISIEFAR che la presenza di Fidesz nei conservatori o in Identità e Democrazia farà la differenza per quello che riguarda quale sarà il gruppo che domina. E quindi la destra, diciamo, attacca Salis, rende ancora più difficile uscire dal tranello di Orban e quindi paradossalmente gli alleati di Meloni le complicano la vita. Sì, e su questo, sulla pelle di una persona che è rinchiusa in carcere con accuse strampalate e gravissime, ricordo 24 anni per quello che dicono lesioni con pericolo di morte, però che non sono per ora accertate, tra l'altro l'atto di accusa si conosce pochissimo, insomma non è stato ancora diffuso, e poi una richiesta di patteggiamento con 11 anni di condanna che ovviamente Ilaria Salis non ha accettato perché non si sente colpevole e si dichiara innocente. Ascolta, un'ultima questione prima di salutarci, Francesca, che riguarda voglio dire la dimensione europea. Si è parlato anche del caso di Ilaria Salis al Parlamento europeo, tu ti trovavi nei giorni scorsi proprio a Strasburgo, anche per seguire queste vicende insieme a molte altre. E ovviamente, insomma, Orban dice che sono cose della magistratura ungherese, ma sappiamo molto bene che la separazione dei poteri in Ungheria non esiste più. L'Ungheria è un'autocrazia elettorale, un regime ibrido e non una democrazia piena, come più volte affermato anche dal Parlamento europeo. E, insomma, in Europa come si possono sopportare ancora queste cose e soprattutto anche quelle immagini che hanno forse risvegliato alcune coscienze in Italia di una donna in un paese nel cuore dell'Unione Europea tenuta al guinzaglio come un animale? Beh, Giorgia Meloni all'uscita dal Consiglio Europeo ha commentato che questa è una pratica comune in alcuni paesi come l'Ungheria. Certo, non sarebbero nostri costumi, dice la Premier, ma lì funziona così. Insomma, tutto normale, no? Allora, questo tutto normale, no? È stato smentito in modo plateale questo lunedì a Strasburgo, dove si è svolta la plenaria dell'Europarlamento. E si è svolta una situazione piuttosto incredibile. C'era una realtà parallela da Roma, c'erano Nordio e Tajani che dichiaravano i domiciliari non sono possibili, sarebbe inusuale, sarebbe irrituale, c'era il padre di Ilaria che dichiarava questa grave inazione del governo e allo stesso tempo, negli stessi minuti, una commissaria europea parlava all'emiciclo di Strasburgo spiegando che invece si possono chiedere i domiciliari, che Bruxelles è pronta ad aiutare a mediare, che può intervenire con una procedura di infrazione, che tutto ciò che abbiamo visto, insomma, non è normale. Allora il governo Meloni, diciamo in linea col governo Orban, prova a farci credere che sia normale. La Commissione europea è sempre molto timida quando si tratta di criticare i governi, lo è sin troppo, e nel caso specifico di Orban troppo spesso la Commissione europea ha trovato dei compromessi, degli accordi, quindi questo per dare ancora più peso alle parole della commissaria McGuinness, che è intervenuta lunedì in aula sostenendo appunto che non sono normali queste condizioni carcerarie, che assolutamente i domiciliari nel proprio paese di provenienza sono un'opzione che è anche tutelata dalle regole europee, si è offerta perché Bruxelles possa aiutare a mediare. Quindi l'UE dice noi ci siamo e il governo Meloni no. I ministri dicono i domiciliari non sono possibili, si rifiutano di dare garanzie perché Salis passi dall'ambasciata per poi arrivare in Italia, e la Commissione europea, sempre sin troppo timida e reticente, invece ci dice chiaramente che no, il governo potrebbe fare, anzi forse dovrebbe fare e non fa. Eh sì. Insomma, torneremo a parlarne di questa questione perché purtroppo non si risolverà a breve da quello che sembra e tra l'altro, insomma, ricordiamo che la prossima udienza è prevista per il mese di maggio. Ringrazio davvero Francesca De Benedetti. Francesca, grazie di averci accompagnato. Capo Servizio Europa del Quotidiano Domani. È stato un piacere. Ricordo anche che trovate su Facebook una pagina che si chiama Liberiamo Ilaria Salis, dove potete seguire, insomma, novità, aggiornamenti, e potete anche magari dare appoggio alla famiglia Salis. E ricordo che anche in queste ore in cui noi stiamo andando in onda qui a Radio Contrabanda Barcellona si sta tenendo un altro anno questa manifestazione di neonazisti, neofascisti ed estrema destra nuovamente a Budapest per ricordare appunto la difesa della città da parte della Wehrmacht e delle SS, del Reich, di Hitler nel 1945, insomma. E nel frattempo Ilaria Salis è rinchiusa in carcere con accuse davvero surreali. Andiamo ad ascoltarci un brano, poi rientriamo in onda qui a Zibaldone. Ero in spiaggia a Punta Cana, senza l'ombra di una canna. Solo sole, mare, brezza, giovinette e giovinezza, primavera di bellezza, c'era scritto su un cartello di quel sito balneare, e puoi credere, combattere, e obbedire. Il gestore poi mi spiega, senza fare alcuna piega, che ha il diritto d'esser fascio, che ha il dovere d'esser nero, è il suo libero pensiero, gliel'ha detto la procura, giudizio della storia, l'archiviato in istruttoria. E dita di chi è giorno della, e la e la balla là, e canna del su, e canna del su, non te la prendere canna che tu. E dita di chi è giorno della, e la e la balla là, e canna del su, e canna del su, non te la prendere canna che tu. Ero a Como una riunione della buona Caritas, sono entrati molti skin con i bomber, gli anfibi e le Adidas. Traditore della patria che sostieni gli emigranti, se ci tieni ai sentimenti, occhio, non amare l'invasore. Oh oh oh. Disgustato da quell'odio, mi rilasso un po' allo stadio, ma mi becco 10 cori contro i negri calciatori. Mentre un mezzo nazi punk prende in giro l'Anna Frank, ma mi spiega un magistrato che si può, non è un reato. E dite di chi è giorno della, e la e la balla là, e canta del su, e canta del su, non te la prendere canta che tu. E dite di chi è giorno della, e la e la balla là, e canta del su, e canta del su, non te la prendere canta che tu. Sono andato al cimitero a trovare nonno Piero, quando sento Duce, Duce sovrastare la mia pace. No, niente, eran solo Forza Nuova, Alba d'Oro e Casa Pound che invitavano mio nonno, partigiano i nuovi round. C'è un progetto autoritario, chiedo in giro, ma va là, c'è soltanto l'espressione della nostra libertà. E se un certo giovinotto ti fa Hitler a marzabotto, dai, non si può gridare al lupo evocando il tempo cupo. E dite di chi è già da me là, non te la prendere canta che tu. E dite di chi è giorno della, eia eia tra la, e canta del su, e canta del su, non te la prendere canta che tu. Com'è finita la storia? Due bulletti m'hanno messo sopra un treno, tutto ok. Io, quattro islamici, tre ebrei e un amico che si è iscritto all'Arcigay. Eravamo tutti allegri, una bella compagnia, una gita verso un posto che sembrava l'Ungheria. Il fascismo può tornare? Chiedo un tipo, e chi lo sa? Fatti un selfie sul vagone e il magone sparirà. Eia eia, eia eia, eia eia, tra la la. Vittorio Sgarbi, orgoglioso che tanti ragazzi si siano ispirati a me. Il mio sogno ora sono le bande di Latinos che non conoscono l'affettività per parlare d'arte sulla tratta Milano-Brescia. La premier Meloni, con la sua immagine da svampita piena di ironia, ha fatto sognare gli agricoltori. 8 milioni di miliardi in più per il settore e strumenti per competere ad armi pari, ma non a Sanremo. Sono oltre 2.000 gli italiani in carcere all'estero. Il ministro della giustizia Nordio dice: tornate a casa, tutto si risolve. Salvini: è assurdo che Ilaria Salis faccia la maestra se lei può fare la mamma, se lei può fare la spesa, se lei può fare la samba. Il ministro Tajani: Orban, esempio di equilibrio e di gentilezza. Ridisegna i consumi degli italiani. Solo con il pensiero, il calcetto, i pasti all you can eat, ma anche le catene ai piedi, per molti irrinunciabili. Biden intanto promette: andrò alle Olimpiadi ma non a Sanremo. È morto a Ginevra Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di re Umberto e Maria José. Risultato poi uno squilibrato. La storica sepoltura nella cripta reale di Superga. Tra musiche e danze e rituali per scacciare le energie negative, sul suo desiderio la famiglia propone che a decidere sulle leggi razziali sia un referendum. E sono tornate anche le ultimissime del nostro Fausto, che ci fanno ridere, Banzo, ma ci fanno anche in realtà anche preoccupare, come d'altronde anche la canzone di Giampiero Aloisio. Purtroppo da dove cominciamo, Steven? Comincerei da questo momento di lucidità, che è la definizione di Vittorio Emanuele di Savoia, che sì, si è risultato poi uno squilibrato. Che è vero, esattamente, tutto vero. Sì, qui, più vero del vero. Nulla, sui 2000 italiani all'estero, a me piace molto il paternalismo del ministro Nordio, che dice: tornate a casa, vabbè, dai, tutto a posto, no? E forse gli sfugge che appunto se sono in prigione non ci riescono, vabbè, e anche qui comunque in questo mondo pieno di tragedie appare Sanremo, sempre per donare una nota farsesca, ecco. Invece, se mi fai parlare brevemente di Aloisio, e aspetto il tuo permesso, certo, Steven, certo. Grazie, gentilissimo. Abbiamo una canzone che, insomma, forse avrete ricordato alcuni degli eventi descritti, perché insomma, si tratta di qualche anno fa, perché la canzone Ilia Tralala è del 2018, quindi descriveva situazioni che all'epoca erano di strettissima attualità e ovviamente adesso risalgono già a qualche annetto addietro. Aloisio è un cantautore drammaturgo genovese, Genova è sempre il nostro cuore, collaboratore di Gaber, Lupolini, Guccini, e con questo blues insomma rifletteva su alcuni eventi all'epoca nuovissimi che lasciavano pensare a un'involuzione autoritaria dell'Italia, che purtroppo non ha un ritmo forse nato, però si sta effettivamente verificando, ecco. Diciamo che quando Aloisio ha scritto la canzone eravamo qualche passo più indietro. Sì, però purtroppo insomma stiamo vedendo quello che sta succedendo in Italia. Ne abbiamo parlato anche poc'anzi con Francesca De Benedetti, e il caso di Ilaria Salis, per quanto insomma lei si trovi in Ungheria, ci fa capire anche che la deriva italiana insomma sta seguendo proprio i passi dell'urbanismo. Andiamo con un altro anche brano, perché sì, comunque Steven, all'Italia va benissimo che una cittadina italiana sia in quelle condizioni, quindi significa che sono disposti a fare altrettanto a molti cittadini italiani d'Italia, ecco. Sì. Andiamo con un altro brano, una news che ci arriva dall'Italia. Mirko il Cane, che nel 2018 andò proprio a Sanremo e poi vinse anche una Targa Tenco con una canzone dedicata al dramma delle morti nel Mediterraneo e appunto ai rifugiati che cercavano di entrare nella fortezza Europa. Questo è il suo nuovo brano, molto più intimo, lo sentirete. Non mi ricordo com'è che ti chiamavo, com'è che mi chiamavi tu. Non mi ricordo più come lo facevamo e poi perché litigavamo noi. Quando finisce un amore, quanti ricordi da non ricordare, quante foto imbarazzanti nel cellulare. Dormi e non vuoi mangiare, stereotipi da sdoganare. Se finisce un amore c'è da festeggiare, altro che struggerci al pensiero di noi. Chissà dove sei, vabbè dai, fa niente. In qualche modo ti dimenticherò, ti sostituirò, ci proverò. Proverò, proverò, proverò, proverò. Ma intanto 13 patetici motivi per volerti male, per augurarti che la vita ti tagliuzzi a pezzettini il cuore. Quando ho capito che eri il mio peggior nemico ti chiamavo amore, pensa combinazione, te ne sei andato e ho ritrovato la chiave per uscire dalla mia prigione, dalla mia prigione. Non mi ricordo più, ma tutto quel futuro ero previsto anch'io, c'eri soltanto tu. Non mi ricordo più, andava tutto male, forse portavi male tu. Quando finisce un amore e certe cose non le vuoi sapere, certa gente fa domande che non vuoi sentire, strade che è meglio evitare, silenzio anche per rinunciare a quel ridicolo messaggio che vorrei inviare. Tanto a me che me ne frega di te, figurati se vabbè dai fa niente, in qualche modo ti dimenticherò, ti sostituirò, ci proverò, proverò, proverò, proverò, proverò. Ma intanto 13 patetici motivi per volerti male, per augurarti che la vita ti tagliuzzi a pezzettini il cuore. Quando ho capito che eri il mio peggior nemico ti chiamavo amore, pensa combinazione, te ne sei andato e ho ritrovato la chiave, ho ritrovato la chiave. Pronto? Sì, ciao, come stai? No, no, infatti, no, guarda, scusa, sì, sono andata solo per dirti una cosa, una cosa al volo, no, vabbè, dai, senza che strilli, vabbè, comunque, ti ricordi che cercavo sempre quella chiave? Beh, l'ho ritrovata, sì. Quando ho capito che eri il mio peggior nemico ti chiamavo amore, pensa combinazione, te ne sei andato e ho ritrovato la chiave per uscire dalla mia prigione. Lui è Mirko il Cane, non mi ricordo più, un nuovo brano di questo bravo artista romano. Banzo, siamo arrivati alla fine di Zibaldone, ci rimane giusto il tempo per l'ultimo trago, ossia una canzone italiana però tradotta in un'altra lingua. In genere ci basiamo soprattutto sulla Spagna, ma anche appunto come in questo caso la Catalogna e la lingua catalana. Non mi ricordo più, era il titolo della canzone di... Sì, ok, perfetto, grazie, era una gag. Allora, sì, chiudiamo con una canzone a tema con la puntata di oggi e non sarà in spagnolo, ma in catalano. Vi proporremo Jutge Sena Lively, che è una cover in catalano di Un giudice di Fabrizio De André, così ci ricolleghiamo anche all'inizio, riproposta da Samuele Arba nel 2021. Samuele Arba, insomma, chi ci segue da tanto tempo sa che ne abbiamo parlato, e la riproposizione aveva proposto nel 2021 questo disco intero che rifaceva in catalano Non al denaro, non all'amore né al cielo del 71, e in catalano, lo dico per il riferimento, si intitola Ni all'or, ni all'amor, ni al cel, perché denaro è sempre plurale in catalano, quindi saltava tutto. E invece il brano che avevamo sentito all'inizio, coverizzato da Truppi, proveniva dalla Storia di un impiegato, che è il disco successivo, quello del 1973. Quindi passiamo dal 71 al 73. Insomma, parlare di Un giudice per chiudere la puntata ci sembra molto coerente con la tematica che abbiamo trattato oggi. Eh sì, e soprattutto insomma ritornare comunque sempre a De André. Ricordo che Samuele Arba è stato molte volte nostro ospite qui a Zibaldone. Lui è un cantautore e musicista sardo che vive da anni in Catalogna, e a questo si deve appunto questa versione in catalano di Fabrizio De André. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo con una nuova puntata di Zibaldone. Ci auguriamo che nel mentre ci siano buone novità, anche se purtroppo è molto difficile, sul caso di Ilaria Salis, che noi vogliamo libera, vogliamo subito in Italia, e vogliamo appunto che finisca presto questa bruttissima storia la seguiremo comunque qui a Zibaldone e niente di più niente di meno, ci ritroviamo venerdì prossimo come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, alle 17.55 diceva tutti venerdì: e tutte le volte che sentiamo una canzone di De André possiamo osservare con chiarezza come Salvini lo ascolti senza capire le parole, ecco. Eh sì, effettivamente, perché Salvini lo ricorda spesso nella sua autobiografia, dice che De André è il suo artista preferito e anche lui dice di andare in direzione ostinata e contraria. Ecco, è proprio vergognoso questa appropriazione di De André e noi adesso ce lo andiamo a ascoltare nella versione di Samuele Arba in catalano. Ciao Banzo, ciao a tutti, a venerdì prossimo. Explicarà què vol dir fer un metre i mig. Ho diuen les mirades i els acudits de la gent o la curiositat d'una jove irriverent que us apropa només perquè té un dubte impertinent. Vol saber si és cert allò que diuen sobre els grans, que siguin proveïts de la virtut que no es pot citar. Entre totes virtuts, sens dubte la més vulgar. Passaren anys, mesos i fins i tot els minuts. Fou trist trobar-se adult sense haver crescut. La maldicència augmenta, la llengua tusta sense por. Arriba a dir que un nan és un mal parit i un gandul perquè té el seu cor massa a prop de l'ullet del cul. I vaig agafar el camí que des de les naus d'una catedral duia a la sagristia fins a l'estrada d'un tribunal. Jutge finalment, arbitre a terra del bé i del mal. Aleshores la meva alçada dispensava pas hilaritat als qui agenollats davant meu em demanaven pietat, i entregar-los al botxí fou un goig només meu abans de prostrar-me en l'hora de la Déu, sense conèixer pas l'alçada de Déu.